qui vincere è normale, purtroppo è brutto dirlo, ma sta diventando normale. Nello sport invece vincere è sempre difficile, vincere non è mai normale, è sempre una cosa eccezionale. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La squadra ha giocato bene fino agli ultimi 30 metri, è un problema di questa squadra. E dopo la differenza è l'efficacia. È la prima volta che Juve arriva alla nostra porta, ha fatto un gol. Noi abbiamo opportunità e sbagliamo, questa è la differenza. Lo stadio è bellissimo, crea un'atmosfera bellissima, stasera non sembrava di essere in Coppa Italia, fortunatamente stasera sembrava di essere in Coppa d'Inghilterra, perché la Coppa Italia spesso la giochi di nascosto, sembra, non è facile venire qui a fare punti, ma non è facile per nessuno. Io ho avuto la fortuna di vincerci una volta, ma dopo 3 o 4 sconfitte consecutive. Quattro punti di vantaggio in campionato, vi danno un po' di tranquillità? Ci danno nulla, zero, 4 punti non sono niente. Se pensiamo che i 4 punti siano sufficienti per arrivare fino in fondo a prima, siamo matti. Abbiamo 3 obiettivi dei quali abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo. Attenzione, attenzione, mi comunico ora dalla regia che parte in arrivo, quindi sarà qui tra poco tra noi fisicamente. Evitando, probabilmente ha voluto evitare dopo una puntata di ieri piuttosto complicata sul piano telefonico, non lui ma altri ospiti, vabbè, cose che capitano in diretta. Ebbene, adesso arriva, grazie a Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato, e poi facciamo tutti la ola perché c'è Maurizio Crosetti da Repubblica. Ciao Mau. Eccoci, buongiorno, grazie, viva. Senti, la Juventus mi sembra abbia inventato una nuova formula, la Coppa Italia Lab, cioè laboratorio del sarrismo, del sorriso, del triplo attaccante, camera di decompressione per quelli che chiedono campo e lo ottengono. È una sorta di territorio in cui tutto sembra funzionare come Sarri sogna. Sì, è sembrato quasi che ieri sera la Juve si allenasse per la Champions, e uso un verbo che potrebbe sembrare offensivo e non lo è nei confronti della Roma o della manifestazione stessa, ma ho sentito Sarri. È vero quando dice che sembra la Coppa d'Inghilterra, sembrava qualcos'altro la Coppa Italia ieri sera, perché la Juve sta diventando qualcos'altro. Sta diventando lentamente, ma sempre meno lentamente, una macchina diversa, una macchina varia nel suo modo di aggredire le partite, a momenti effettivamente di bel gioco, di bel gioco, no? Quella chimera che abbiamo inseguito tutti, scherzandoci anche un po' sopra. In tutti questi mesi in cui la Juve è stata non particolarmente bella, ma quasi sempre particolarmente efficace. Ecco, adesso all'interno dell'efficacia che già c'era, c'è una, anche se bellezza poi è un termine bello, appunto, bellezza è bello, ma è vago. Sì. Diciamo che c'è un'attitudine al gioco veloce, allo spettacolo, all'intesa e anche quella specie di allegria che quando i giocatori si divertono a giocare insieme emerge proprio automaticamente. Non era il sarrismo, quello anche un termine un po' abusato, però effettivamente quel Napoli si vedeva che giocava con piacere, e giocano con piacere le squadre di tutti i tipi, di tutti i tempi e con tutti i moduli, sì, non è un'esclusiva della zona, degli zonisti. Però insomma, quello che si aspettava di diverso dentro la Juve si è atteso lungamente e adesso secondo me sta arrivando. E sta arrivando non a caso, io credo, quando poi alla fine ci sono i tre attaccanti, che si chiamino Douglas Costa, Higuain e Dybala, che si chiamino Dybala, Ronaldo, Higuain, insomma tre di quelli lì secondo me vanno messi quasi sempre. Che ti accorgi anche tu del paradosso, perché era la formula abituale di Allegri. Sì, anche se Allegri Dybala lo vedeva ancora meno di Sarri, nel senso che non riusciva proprio a pensare che potesse coesistere con Ronaldo. A me pare invece che quest'anno questo ragazzo si stia facendo ancora di più il mazzo, e a me sembra che quando la Juve ha quei tre lì, se poi ieri non c'era Dybala ma c'era Douglas Costa, che più o meno è partito all'ala ma poi è andato a fare il Dybala, di fatto ha messo poi un piede in tutte le azioni dei gol della Juve, e io credo che quando ci sono quei tre non ci sono più gli avversari, cioè quello che la Juve potrebbe rimetterci in parte in equilibrio, in filtro a centrocampo, e ci guadagna di più nel peso che ha in attacco, nella paura che crea nell'avversario, nel disagio difensivo che crea in questo avversario medesimo. Quindi secondo me è un gioco che vale non solo una candela, ma ne vale due, vale tutto un candelabro questo gioco. Adesso, no, stavo pensando a varie cose, tra cui questa. L'altro giorno mi manda una mail un gentile ascoltatore, mi dice: lei odia l'Inter, si vergogni, che poi non è totalmente vero. Chi mi conosce come Maurizio Corsetti lo sa perfettamente, non odio nessuno. Odio è una parola che già non mi appartiene. Ma soprattutto figurati, detto, scusa, ti interrompo. A noi non importa, a noi importa di tutti e non importa niente di nessuno. Bravo. È questo che l'ascoltatore non capisce. A noi importa di tutti, del gioco, del lavoro, del divertimento, dei giocatori, dei personaggi, delle idee. Ma non ce ne frega nulla. Ci sono tra noi alcuni ultra, e si vedono anche, certo, in figure invisibili, però quelli non li considero nemmeno colleghi. Cioè, quelli che fanno il tifo, secondo me, non sono colleghi. Sì, anche perché si vedono le cose in maniera un po' distorta. Adesso, quotato bassissimo, prossimo messaggio: siete delle mignotte, e io approvo e sottoscrivo, naturalmente. Vabbè, quello ci mancherebbe, mestiere totalmente rispettabile. Ma magari. No, però stavo pensando che a proposito di Inter. Adesso ci saranno gli interisti che si aggrovigliano sul Lecce, sul mercato, su queste logiche qui, che ascolteranno il tuo intervento, lo scaricheranno in podcast per deprimersi un po' nei momenti di gioia. E vabbè, insomma, anche questa è una lezione juventina storica, che deprimersi nei momenti di gioia sfiora un po' il tafazzismo, è vero, perché la Juve è da 100 e più anni una società che ogni tanto fa tafazzi, ma si batte il bottiglione, dove voi sapete, non dopo aver perso per perdere di più, ma dopo aver vinto per dimenticare la gioia della vittoria. Sì. Insomma, alla fine loro, può piacere o non piacere, possono essere simpatici o antipatici, puoi stimarli o non stimarli, puoi amarli o puoi odiarli, ma non puoi riconoscere che sono più bravi. Sono diversi, sì. E c'è poco da fare, cioè, se poi uno dice questo passa per Juventino, non è che non ne frega. Ma esattamente, altrimenti stiamo zitti e non diciamo più niente. Quotato bassissimo, prossimo messaggio, ma meno male, state zitti ogni tanto. No, però nella Juventus di ieri sera, tutto quello che hai detto e sottoscrivo, in più largo ai giovani, no? Buffon che comunque si fa un altro gol ma fa delle paratone, Bonucci che segna, Higuain che vabbè fa l'Higuain ormai da tutta la stagione, il miglior Higuain della carriera secondo me, torno a ripetere, e poi quel ragazzo col 7 che non ha neanche le spalle strette. No, le allarghissime, accidenti, e la distruzione completa del foro De Gregori, cioè Cristiano Ronaldo oltre a tutte le cose bellissime che ha fatto ne ha fatta una terribile. Ha distrutto De Gregori e la leva ciclista, la leva calcistica. Vabbè, scherzi a parte, no? Quelli sono, sì, sono dei vecchi, ma sono creature senza tempo, sono dei pachidermi che non invecchiano, e sono dei grandi campioni. Però occhio che ieri poi quello che mi è piaciuto di più alla fine è un giovane, si chiama Rodrigo Betancourt, e questo tra i tanti spunti che ha dato la partita di ieri sera, una partita con poco avversario, questo va detto, con dei cracker di fronte anziché con dei difensori. Io ho giocato contro i pavesini, contro i cracker quelli con un velo di sale, neanche, erano dei cracker senza sale, quindi, sì, perché sai che sono i due tipi, sì, di supermercato, sì, salati, sì, in superficie o senza sale. Ecco, la difesa della Roma ieri era una scatola, un pacchetto di cracker senza sale, ma ciò nonostante abbiamo visto molte cose interessanti, alcune le abbiamo dette. E tra le più interessanti io ci metto davvero questo giocatore, per cui comincio a stravedere, mi preoccupo un po', perché rischiano di essere infatuazioni, ma io mi sto statisticamente infatuando di Rodrigo Betancourt e devo fare outing di fronte alla nazione intera. No, poi Maurizio, non dimentichiamo che quando scenderà dall'altalena, questo è un super giocatore, perché a un certo punto l'anno scorso la Juventus era Betancourt più altri 10, Allegri non lo toglieva mai dal campo, poi ha avuto una flessione, che ha avuto un po' di disgrazia, ma che sia un super giocatore si vede. Oh, un gran giocatore. però d'altra parte il discorso generale è che largo ai giovani, sì, con calma, e quando Ibra insegna, no? Abbiamo parlato in questi giorni del suo potere taumaturgico. Onestamente, domenica, in un Milan che non meritava di vincere, in cui Ibra ha strusciato pochi palloni, ma anche perché non gliene portano, poi ha vinto, e parliamo di ibraismo e di magia. Ma d'altra parte, ragazzi, cosa possiamo farci quando abbiamo anche una cosa da farti sentire, questa. Penso che dobbiamo andare piano, perché non so se si può dire, ma abbiamo mangiato la merda. Adesso stiamo ritrovando le nostre miglior partite, le nostre caratteristiche. C'ha 38 anni e ieri, quando abbiamo fatto il lavoro di recupero, era il primo. Arriva a lavorare a Milanello il primo. C'è un giocatore che si chiama Ibrahimovic, che ha 38 anni, ha fatto tutto nella carriera, fa queste cose. Tu che ti chiami Samu Castillejo non lo fai, per forza. Questo non è Ibra, ma Samu Castillejo, che parla dell'ibraismo. La stessa voce di Paolo Montero, pensavo che dicesse: oh, te do la pigna, te do una pigna, amico. E siamo lì, no? È uguale. La provenienza più o meno è quella, la radice ispanica è quella, però è una, così, una dichiarazione di ibraismo. Di lui che fa quelle cose che fa, e poi non fa, io mi chiamo Samu Castillejo, che cosa posso permettermi di non farlo? D'altra parte, largo ai giovani, quando se lo meriteranno, quando Sinner batterà Federer, saremo qui tutti felici e contenti, ancora più contenti perché Sinner è italiano. Però, ragazzi, questi sono duri a morire, da LeBron James, Tom Brady e tutti quelli che vuoi. Ecco qua, eccolo qua. Chi è? In meravigliosa. È arrivato l'Arrotino. Giacca Amaranto, è arrivato l'Arrotino Bardo. Io sono l'Arrotino. Sto parlando con Maurizio Crosetto, con mio amico Crosetto. Ah, Cross, buongiorno Cross, come va? È magnifico, grazie. Tu, caro? Bene, trafelato come sempre, va bene. Bene. Qui funziona così. Bello trafelato, meglio trifolato. No, però stavamo parlando del gerontocomio di gran moda alla Juventus, con... Sì, sentivo la formazione più anziana di non so... Forse, e d'altra parte, ragazzi, però, io sono, essendo anziano, sono un favore, certo, sono favorevole al gerontocomio, quindi a Villarzilla... Gigi da solo, insomma, lo dico col massimo dell'affetto, ci conosciamo bene, siamo amici, ma insomma, alza un po', no? La media. Io sono un sostenitore di Villarzilla. 35, Higuain, sì, non è proprio un pischelletto, vabbè. Ibrahimovic, che Castillejo abbiamo appena fatto, certo, sentire, dice, e io, lui fa vedere, in campo fa certe cose, io mi chiamo Samu Castillejo, che posso tirarmi indietro? Vabbè, Maurizio viene a giocare con Villarzilla. Assolutamente, anche perché io potrei essere forse quasi il decano della stanza, e quindi ci leviamo la dentiera, avvitiamo meglio il catetere e ci buttiamo nella pugna. Bene, perfetto, mi piace questa cosa. Mi piace. No, è un grande messaggio di speranza per gli anni che mi aspettano. No, io adesso saluto Maurizio Crosetto, lo lascio andare. Hai qualcosa da dirgli? Niente, lo saluto, lo abbraccio. Fatti vivo, vieni di tanta attività, che è dall'inizio dell'anno che lo inseguo. Poi adesso mi sono anche un po' defilato, cioè qualche stella non ti chiamo più perché ho l'ansia da due di picche, però insomma perché lavora succederà ma adesso lunedì forse sei più libero, favorirà. Ciao Mauri, grazie, trattativa in diretta. Ciao, cari. Ti diamo anche la metà di Politano, metà di Allan, un quarto di Llorente, adesso... 6/7 di Suso. Hai visto che sta nascendo l'asse Inter-Napoli Gattuso Conte? Succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare. Vabbè, però insomma ci sta, dai, un'operazione che ci sta, secondo me l'Inter si sta muovendo tanto, io ribadisco quello che cioè, dico Politano, dall'inizio della stagione, cioè l'Inter è in una fase di attività, ma lo dico proprio in senso positivo, a livello societario, a livello di proprio di focus, di lavoro, che non c'è giorno si esprime che non spunti un giocatore che ma così si fa, però, così si fa. Cioè, poi vedremo ovviamente chi arriverà, perché non è sempre facile. Vidal, se ci fossero state altre condizioni, secondo me già oggi sarebbe un giocatore dell'Inter, però insomma il lavoro che stanno facendo è notevolissimo. Su Politano è chiaro, secondo me, il punto di vista del ragazzo, che probabilmente preferisce la Roma per motivi anche di cuore, ma che soprattutto ha l'esigenza di andare a giocare e di andare a giocare in una squadra importante nei prossimi mesi. Quindi se non sarà la Roma, a questo punto sembra più probabile possa essere il Napoli. Senti, hai saputo della cena della Spectre a Londra? Che è successo? Oddio, me la sono persa. La sei persa? È perché ieri ho cenato a casa guardando la partita. Allora, adesso te la racconto subito dopo questo stacco. C'è anche uno della Spectre collegato. Ah, perfetto. Benissimo. Sentire Conte parlare dei giocatori che gli mancano e vedere la Juventus a che punto è arrivata dopo che lui è scappato mi fa troppo godere. Gazzarola. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, immagina Londra, Mayfair, ristorante pluristellato. Yeah, great atmosphere, lovely great place. Loads of Arsenal, Tottenham, Chelsea, and Fulham fans just outside the place. You know, Gordon Ramsay and David Ordani cooking together. Sì. Arriva uno con il giaccone e i jeans. Rihanna. Solita miss. No, non c'era Rihanna, no. No, Rihanna mi risulta di no. L'altro arriva elegantissimo come sempre, coperto di fili e cellulari. Un altro arriva con il berretto e il sigaro in bocca per camuffarsi un po'. Yep. L'altro non è dato di sapere come arriva, però erano i quattro principali procuratori del calcio mondiale, la Spectre. Mino Raiola, Mendes, Barnett e Mamè, spero si diceva così, che si trovano a cena in questa funzione contro il nemico. A mangiare la pizza, A Mayfair. Mayfair, ha smontato tutto il racconto. Lovely place. Andrea D'Amico, buongiorno. Oh, Andrea D'Amico, eri lì? Eri lì? No. Non eri lì? No. C'era una riunione della Spectre italiana. Non eri? Andiamo a Reggio. Dov'è quel posto dove siamo andati insieme, vicino fra Verona, insomma, campagna, quello buonissimo? I colli storici, a Custoza. Sì, a Custoza. Ecco, eri a Custoza a bere del bianco di Custoza? No. Comunque, no. Tutti a tramare contro il nemico del male, contro il nemico del mondo che è la FIFA, giusto? Ma guarda, giusto, no, non lo so gli argomenti quali fossero, però dico solo una cosa che riguarda la nostra professione. Io sono favorevolissimo che lo Stato, il CONI, la Federcalcio, la FIFA regolamenti sempre meglio, sempre di più questa professione. Però è giusto che vengano riconosciuti anche determinati diritti ai professionisti che lavorano bene. Cioè, se noi dobbiamo pagare per essere iscritti, fargli gli esami, se dobbiamo essere controllati, depositare e pagare per ogni deposito, è giusto che anche i nostri crediti siano considerati dei crediti sportivi alla stregua degli stipendi dei giocatori. Invece noi a volte aspettiamo anni per essere pagati, e questo non lo dice nessuno perché sarebbe impopolare, e tante volte, e quando le società falliscono, addirittura anche se ci hanno pagato, siamo soggetti alle revocatorie fallimentari. Quindi dobbiamo restituire i soldi su cui abbiamo già pagato le tasse e che non sono stati pagati. Sì, c'è la sensazione, Andrea, facendola un po' più semplice, che sia un mondo di grande deregulation, con, diciamo, degli aspetti sicuramente positivi della vicenda, ma anche con degli aspetti negativi, nel senso che avete libertà di, insomma, di esprimere, di entrare magari anche verso la fine su una trattativa, risaltarci sopra, però insomma anche con un bisogno di regolamentazione superiore, così? Di fatto ci sono già tante regolamentazioni nazionali. Adesso so che la FIFA sta varando una nuova normativa. Io dico perfettamente d'accordo per essere regolamentati, controllati, certificati, che noi si debba pagare, però è giusto anche che si riconoscano determinati diritti, il primo in tutti, ma anche nell'interesse del calcio, del sistema, delle società. Perché ad esempio Palermo non è fallito perché era dietro con i pagamenti dei giocatori e perché aveva X milioni di euro di debiti con gli agenti. Allora dico, se chi controllava l'ammissibilità del Palermo avesse controllato anche queste voci e fossero state assimilate agli stipendi dei giocatori, magari pagavano prima, però forse quello sarebbe stato un campanello d'allarme che avrebbe semplificato la situazione ed evitato guai. La regolarità del campionato, fattispecie della Serie B, ne sarebbe stata comunque preservata. Perché poi abbiamo visto cosa è successo a Palermo, e chi ripeschiamo è questo, e poi quell'altro. No, e ma poi il dubbio, Andrea, ma sappiamo benissimo che uno dei più grandi problemi sarà quella dell'assenza di controlli su anche su chi entra nel calcio, non solo su chi già ci sta. Ma mentre mi avvisano, mi avvertono, mi ammoniscono via WhatsApp, a proposito 349-238-6666 per intervenire, che il bianco di Custoza nei colli vicentini e non veronesi, please. Mentre noi scrivono... siamo stati a Custoza, no, però. No, è una fake news, non diramare fake news. Custoza è uno dei primi paesi della provincia di Verona, bianco di Custoza, doc. Entrando dalla Lombardia, c'è un ascoltatore che mi scrive così. Io ragazzi, non sono andato su Google Maps Custoza, provincia di Verona. Poi adesso forse sono colli vicentini. Grande rispetto, fra l'altro. Vicenza mi ricordo immediatamente il baccalà, quindi già godo solo al pensiero di Vicenza. Però 70 km prima di arrivare a Vicenza c'è anche il bianco di Custoza. Ma fra l'altro, scusami, Custoza è più verso, cioè da Verona, è più verso Brescia che verso Vicenza, giusto? Io abito lì, per cui. Quindi caro ascoltatore, se vuole dibattere di vino e geografia, chiami pure 800240024. Ma c'è anche chi mi scrive che prima ho descritto il tuo ingresso, ho fatto la radiocronaca del tuo ingresso. Pardo con la giacca amaranto, libera Livorno, Daldo, Spinelli, solo tu ci puoi salvare. Un saluto da Pierpaolo. Addirittura. Ci si vede in capannina. Baracchina. Io volevo chiedere a Andrea D'Amico, in questo manicomio, che cosa ne pensi del mercato dell'asse? Scusa, un momento di Livornese. Me l'ha venuto fuori. Dell'asse Inter-Napoli che sta nascendo. Ma. Normale, si creano in ogni stagione delle collaborazioni a seconda delle necessità. C'è chi ha bisogno di dare, chi ha bisogno di ricevere. Diciamo che le capienze sono abbastanza simili, perché comunque se un giocatore deve uscire dall'Inter deve entrare una società ugualmente capiente, che possa pagare lo stipendio, che possa assicurare lo stesso palcoscenico. E nonostante che il Napoli quest'anno abbia poca soddisfazione in campionato, comunque agli ottavi di Champions, ed è sempre molto lusinghiero per un giocatore far parte del Napoli, perché comunque in questi anni ha fatto delle cose molto importanti. Sicuro, però sai benissimo che queste sacre alleanze, sante alleanze o alleanze poco sante, diventano molto importanti anche per ragionamenti di bilanci di mercato, eccetera. Insomma, ci sono alleanze storiche di mercato per cui qualche volta anche i tifosi si arrabbiano, ci fanno sopra dei film o dell'ironia, no? Di relazione, a volte sono delle alleanze obbligate, perché comunque un giocatore va ceduto e quindi vedi dove può essere ceduto. Se hai degli ottimi rapporti con i dirigenti della squadra cessionaria, a quel punto lì si può concretizzare. Io non ci trovo tutto questo manicheismo, cioè non è che perché... No, ma nemmeno io. Cioè, per me è assolutamente commercio, non è mica religione. Invece, quanto al Milan, dalle tante ex stelle in panchina e con un giocatore che ne abbiamo parlato l'altro giorno, che è Suso, che è senza procuratore, che quindi va di persona a trattare con Maldini e Boban, litigandoci quasi, dicendo per favore mi potete dar via, vediamo, bla bla bla, si cercano acquirenti, però. Il momento del Milan, anche da questo punto di vista, è bizzarro. Piontek, Suso e Paquetà che sono sul punto di essere ceduti. Hai qualche idea in proposito? Ma sì, è sempre un'alchimia molto difficile da trovare, quella del gruppo. E troviamo degli 11 meno performanti a livello individuale che fanno molto meglio. Cioè, non è detto che metti insieme 11 bravi giocatori e fai una squadra di successo. Vediamo cosa ha fatto Gasperini con l'Atalanta in questi anni, senza riesumare il successo storico del Verona fatto con tutti i giocatori scartati dalle grandi squadre. L'alchimia che si crea in un gruppo, in una squadra, non è fatto solo di qualità tecniche, ma soprattutto anche di energia mentale, di condivisione, di equilibrio sia tattico che mentale, e soprattutto oggi come oggi di grande preparazione atletica, per cui ed è il motivo, Andrea, secondo me, per il quale poi alla fine gli allenatori pesano. Cioè, il valore di un allenatore non è un ventesimo, non è come uno degli altri della rosa, ha un valore che chiaramente poi non è che vince le partite da solo, perché, o che perde le partite da solo, però secondo me ha un margine di più 20, più 30% o meno 20, meno 30% di rendimento che fa tutta la differenza del mondo. Sono assolutamente d'accordo. Poi, come tutte le situazioni della vita, essendo un tipo di talento più legato, secondo me, alla, appunto, all'empatia, alla capacità di comunicazione col gruppo. È possibile che ci possano essere delle eccezioni, cioè che degli allenatori che sono andati molto bene in certi ambienti possano faticare di più, no? Rispetto alla, rispetto al talento di Messi e Ronaldo, il talento di Guardiola, di Ancelotti o di Conte è più soggetto, secondo me, a, agli aspetti ambientali, al tipo di rapporto con gli altri, quindi è più aleatorio, però è un talento pure quello. Mentre, ragazzi, io vi dico che su WhatsApp abbiamo scatenato un manicomio su Custozza. Per Custozza, che è al confine tra Verona e Mantova. Vabbè, ma appunto, cioè, beh, più di là, Mantova è più giù, confine tra, tra Verona e Mantova, mi scrivono. E poi c'è questa, è Vicenza, è Custozza, che è in provincia di Vicenza. Ma grande rispetto per Custozza, ma andiamo pure a Custozza. A Vicenza c'è Custozza, non chi Custozza, siamo noi, cioè, per non andare a Custozza? Bianco, insomma, adesso mia mamma mi scrive che non devo fare troppo il buffone, questo mi sta per scrivere, già lo so. Tanto per rimanere in tema calcistico barra storico, c'è un bel libro che racconta delle due battaglie risorgimentali 1848 del 1866 a Custozza, che si intitola Custozza, la via italiana alla sconfitta 2-0. E purtroppo abbiamo perso, perché nonostante che l'esercito franco-piemontese fosse numericamente più grande di quello austriaco, i generali litigavano tra di loro, tanto per rimanere in tema di allenatori. Gli allenatori austriaci erano purtroppo molto più bravi e ci hanno colti tutti e due le battaglie. Andrea, grazie anche per citazione storica. Ciao, cioè, Andrea. Storico calcistica, perché poi vedi l'importanza dei generali è in qualche modo equiparabile, assimilabile all'importanza degli allenatori. Allora, c'è la borsa? Sì. Poi ti porta a Ibiza. Sei contento? Sì, purtroppo metaforicamente mi ci porti. No, andiamo davvero. Andiamo, va bene, andiamo. Ma il fra i prezzi finanziario esiste solo per le altre squadre? Per la Juventus no. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4MATIC del nuovo GLC. Oggi hai 4.000 euro di ecoincentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da Euro 0 a Euro 5. E con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Imprenditore, non sprecare il 2020 aspettando la tua banca. In soli 3 giorni su credimi.com ottieni fino a 2 milioni senza vincoli e garanzie. Anno nuovo, finanza nuova, solo su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli 19,90 €. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia. Dall'invio telematico degli scontrini alle novità per l'IVA del 2020, dal regime forfettario ai crediti d'imposta per le imprese che investono. Vuoi conoscere tutte le novità fiscali 2020? Segui la diretta di Telefisco, la 29esima edizione del convegno dell'Esperto Risponde. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità tributarie dell'anno. Per saperne di più, ilsole24ore.com/telefisco. Audi official partner di Telefisco 2020. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Tutti convocati. Parlate solo sempre della Juve, della Juve, della Juve, le altre squadre non contano nulla. E Ronaldo ha fatto un colpo di tacco E Ronaldo ha stoppato di petto, ma basta, ma siete veramente al servizio della Juve, ma fino in fondo, eh. Al servizio, ma come? Quanto prende la Juve? Niente. Yeah, anch'io, perché? No, e non va bene, però. Bene, perché veramente. Ma no, ma poi voglio dire. Ha bisogno di una trattativa. Mi hanno dato non è possibile paga a lavorare questa storia nella mia vita di tutte le squadre, in realtà quindi nessuna. No, vabbè, e della Juve si parla tanto, lo dico cercando di portare il discorso in maniera più larga. Si parla tanto della Juve, come si parla tanto quest'anno, se tantissimo, giustamente, dell'Inter, come si parla tanto delle grandissime squadre, il discorso abbiamo fatto mille volte. Poi se uno mi dice si parla poco della Lazio a livello nazionale per la classifica che ha, io sono d'accordo, perché è evidente che la Lazio, che ha un bacino d'utenza importante, insomma, fino a qualche settimana fa soprattutto veniva un po' sottovalutata per quella che è la sua forza. Questo può essere un discorso di tipo diverso, però insomma che si parli tanto della Juve è normale, come si parla tanto dell'Inter, come si parla tanto di Ibra, come si parla tanto del Napoli. No, ma poi ragazzi, vabbè, esiste uno strumento meraviglioso che si chiama telefono, esiste anche un numero verde che è gratuito, 800 24. Poi in generale quando si parla di una squadra, non parliamo, è che di solito le si fa un grande favore, nel senso che sicuramente no. In assoluto si crea anche pressione. Vabbè, comunque no. È un discorso diverso, dai, andiamo avanti. Dunque, ti avevo promesso di portare Ibiza. Infatti. Pronto? Si parla poco di Ibiza. Si parla pochissimo, anche dell'Ibiza. Sì. Beh, no, noi lo facciamo perché siamo profondamente democratici. Sì, poi c'è questa coppa, no? Ciao Filippo. Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Come va? Benissimo, è Ibiza. Grande pezzettino. Anzi, che avete scelto, è stupendo. Ieri c'era il DJ a bordo campo. Tra l'altro, pochissimi sanno, e da adesso invece lo sapranno tutti, che Filippo Maria Ricci, sì, che è un insospettabile, possiamo dirlo, 50 quasi 3. Quasi 53 anni, ne dimostra 35, ma in realtà ha un passato da clubber vero, cioè da DJ, quasi da raver, possiamo dirlo, non ci niente di male. No, da raver, no. Cioè, non quasi. Che facevi? Più. Di più. Io li ho organizzati. Organizzava i rave, cioè Filippo Vogliamo Maria Ricci, guarda la schiattone, anche, è tornato anche De Luca per l'occasione. Filippo Maria Ricci organizzava i rave. Sì. 89, quindi che brano è questo? Adesso. Facciamolo Shazam Ricci, che brano è? No, così a secco, così musica dance non ci posso arrivare. Se su dei classici sì, ma su questo no, dai. Quindi è durissima. Quanto è rave l'Ibiza del calcio? Sei ancora a Ibiza, dove ieri il Barcellona era in tournée. No. Esatto, sono andati un po', l'hanno presa un po' alla leggera. Io appunto l'ho detto, l'Ibiza mette la musica e il Barcellona balla. Questo è stato, no, poi c'era, ho twittato questo. C'era anche il Real Madrid in tournée a Las Pistas, no? Bello, lo stadio dell'Unionistas, dove hanno fatto il record del mondo di salto in alto, che è ancora vigente, nel 93, di Sotomayor. Ma pensa un po'. Lì, in quello stadietto lì, 4.000 posti, c'è una... gli hanno lasciato una specie di targa tutta mangiata dall'erba, poveretti, non ci tengono tanto, però insomma, no, finalmente una bellissima Coppa del Re. Hanno vinto, comunque finita che hanno vinto le due grandi, questo per chi se lo fosse perso. Però sono state due belle partite, il Barcellona veramente ha rischiato di lasciarci le penne, no, è una nuova formula, l'hanno cambiata da quest'anno, hanno coinvolto le squadre di terza e di seconda B, quindi quarta e terza serie, e quelle che vanno avanti, perché adesso siamo ai sedicesimi, e le quattro che hanno giocato la Supercoppa di Spagna, pure quella rifatta e molto, molto diciamo attraente e interessante, con semifinali e finali, le quattro sono entrate adesso nei sedicesimi, però a una condizione, che dovevano giocare contro la squadra piccola, e la squadra piccola giocava in casa su gara secca. Tutti contenti, e poi se passi, vuol dire, è spettacolare, certo. E se no comunque ti sei fatto per una settimana, sì, comunque hanno avuto per una settimana, 10 giorni, 2 settimane, un sacco di giornalisti, un sacco di attenzione mediatica, e così, e fino al minuto 71, esatto, e fino al minuto 71, sì, esatto, il Barcellona ha fatto 4, perdeva, cioè già il primo tempo non ha fatto un tiro in porta, l'Ibiza ha fatto un gol annullato, un palo e una super parata di Neto. Sì. E poi alla fine Griezmann, sono bastati due passaggi fatti bene, Griezmann ha fatto 2 gol, il secondo al 94, tra l'altro in un buio pressoché assoluto. Infatti io ho detto luci indegne di un'isola così famosa per le discoteche, ho scritto. Perché beh, certo, certo, certo. Cioè, perché ti hanno mandato l'inviato organizzatore di rave, quindi esatto, ma poi chi? Sono dei maestri, a livello di illuminazione lo stadio, infatti non gli interessa, perché il calcio non è che non è una priorità in Ibiza, infatti lo stadio non si vedeva. Cioè io non ho potuto scrivere se era fuori gioco, no, perché la VAR entra negli ottavi e le luci non mi hanno permesso di capire, certo, se era fuori gioco o meno. Certo. Siamo lì. Però insomma, quindi un gol anche. Senti, la temperatura com'è? Volendo fare 2-3 giorni, com'è? No, adesso no, a parte freddo. Io non ci sono andato a Ibiza, comunque, detto questo, però comunque faceva... Ah, non ci sei andato? Allora parli senza aver visto le cose. Vabbè, adesso non so. Perché ho dovuto fare tutte e due, allora non hai letto la gazzetta. Perché non allora, fare due partite, allora, allora te, tu parli senza sapere le cose? No, bravo, c'erano 11 gradi, l'ho guardato perché okay. Dovevo andare. Sei guardato sul anche. Telefono adesso potevi dire c'erano 11 no, gradi dove fai il vago. Guarda che chiamo Boriello, eh. Stai attento che chiamo Boriello, Boriello sta a Miami, no. Adesso sta a Miami, ecco. Ma non... peccato. Non lo scegliere. Una grande Coppa del Re che secondo me dovrebbe ispirare. È vero, ho letto una... il tuo tweet. Ho letto il tuo tweet. Sì. Credo che la nostra Coppa Italia da tanti anni è una coppa. Allora, da un punto di vista, dipende di che cosa discutiamo. Se parliamo di entertainment, quindi di ascolti, di complimenti alla Rai, ieri ha fatto il 26% quasi. Napoli-Lazio ha fatto credo il 23,5%, qualcosa del genere. Se parliamo appunto di successo della formula, secondo me la Coppa Italia con la finale unica, con questo tipo di, certo, di formula, sì, è sì, molto, sì, molto cresciuta. L'unica piccola cosa, e l'abbiamo vista in qualche modo ieri sera, è che chiaramente quasi sempre la partita della squadra migliore in casa non aiuta l'equilibrio. Il caso di Napoli-Lazio è un caso limite, no? Un paradosso, perché il Napoli, che lo scorso anno ha chiuso il campionato davanti alla Lazio, però in questo momento ovviamente è inferiore alla Lazio dal punto di vista tecnico, no, e quindi è venuta fuori anche grazie al fattore campo, è venuta fuori una grandissima partita, sì, tra Napoli, sì, e Lazio. C'è stato un elemento, no, di riequilibrio, però è chiaro che nel caso di Inter-Fiorentina, nel caso di Milan-Torino e nel caso di Juve-Roma, questo toglie qualcosa dal punto di vista della, sì, no, formula abbastanza complicata la Coppa Italia. Amplierei il parterre all'inizio, cioè sono i turni per dei sedicesimi, sì, gli ottavi, è lì che è divertente se viene fuori una sorpresa, così, perché poi tanto la gente dice no, perché poi dopo quando c'hai in finale due squadrette poi non te la guarda nessuno. Non è vero, perché vuoi dire, invece per me appunto, come dici tu, la Coppa Italia ha comunque sempre punto, come sempre sono un po' diviso fra l'aspetto strettamente sentimentale, su quale ti do perfettamente ragione, e però l'aspetto anche di uno che guarda non perché mi entri in tasca nulla, ma perché per curiosità e deformazione professionale guardo gli ascolti delle partite. È chiaro che questo tipo di formula così blindata fa sì che si possano avere degli ascolti straordinari il principio della gara secca secondo me è ineliminabile, ma d'altra parte, cioè, in semifinale avremo o Juve-Milan o Juve-Torino, ma poi la gente in tutti e due i casi, in un caso perché è un derby, nell'altro perché è una classica, anche la, insomma, l'utenza dello stadio apprezza, perché, certo, abbiamo una platea, sono partite che sono giocate davanti a una platea seria. Traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Filippo, tu mi hai citato prima Sotomayor che ha fatto il record, quel record storico nello stadio della Las Pistas, e io, sì, ti rispondo citandoti Obikelu. Perché? Obikelu è il velocista nigeriano che correva per la Spagna, o no? Per il Portogallo. Ah, Portogallo, vedi, mi sono sbagliato. Ma perché la Spagna c'aveva una donna. Povero, non è che... è un quiz. Medaglia d'argento ad Atene 2004, finale che ho visto... vinta da Gatlin. Obikelu, perché Ronaldo è andato a lezione da Obikelu, centometrista di fama mondiale, per migliorare la sua postura, la sua, certo, chissà, tecnica. Obikelu cosa potrebbe dirvi che ha migliorato il colpo di testa. D'altra parte siamo alla risurrezione numero 357 di Cristiano Ronaldo, il tassametro sì. cuore. Allora adesso deve andare anche da Sotomayor per migliorare ancora di più il salto. Esatto, esatto, esatto. Senti, ma Cavani viene in Spagna? Ma qui non, cioè, il problema sono i soldi, vedo i genitori che piangono, che accusano, parla prima la madre, poi ha parlato il padre, tutti che attaccano il Paris Saint Germain, però la questione è più semplice, l'Atletico ha un problema di salary cap che l'ha più o meno colmato, per cui deve vendere, e poi in generale non ha i soldi necessari per fare un'operazione che ovviamente è costosa, perché i genitori di Cavani potranno anche piangere sul figlio, ma poi non piangono quando vedono il suo estratto conto, quindi c'è un salario altissimo diciamo il vero problema è questo, e c'è bisogno, l'Atletico ne ha un bisogno incredibile, farebbe bene a Cavani, tutti contenti, però ovviamente non penso che il Paris Saint Germain lo voglia regalare, e poi resta comunque da superare in qualche modo l'ostacolo del tetto dei salari, che al momento diciamo sembra insuperabile, però se trovano la formula è chiaro che a questo Atletico così in crisi, che sta tra l'altro per finire nelle fauci del Liverpool, uno come Cavani serve anche al Barcellona, anche al Barcellona dopo l'infortunio di Suarez, esatto, non farebbe schifo. No. Infatti il Barcellona c'è un casting molto ampio, e questo potrebbe ulteriormente, diciamo, aumentare le possibilità che il Paris Saint Germain voglia poi riscattare Icardi, al di là del fatto che poi c'è l'elemento volontà del giocatore, che non va trascurato, nel senso che da questo punto di vista quello che è filtrato fino adesso è una certa prudenza. Mi sembra che prodotto alla mano Icardi sia da riscattare per il Paris Saint Germain, ma non c'è dubbio, e fossi lui non avrei dubbi sul fatto di star lì, e soprattutto poi se ne va Cavani a vederla fuori. Vederla fuori è una cosa perfetta per tutti, per il Paris Saint Germain, per Icardi e per l'Inter, che monetizzerebbe comunque una cifra importante. Però... ragazzi, prima di dare la linea a un gentile ascoltatore, Leonardo da Monza, voi fareste lo scambio Bernardeschi-Rakitic di cui si vocifera in questi giorni? Io sì, assolutamente. Tu sì, nei parli della Juve? Per la Juve conviene, per me non ci sono dubbi. Pure per Rakitic me. Sarebbe pure molto per me. Comodo, farebbe molto comodo. Pure per me, però ha una sua logica da tutte e due le parti, nel senso per la Juve è un investimento sul presente, lo dice per il Barcellona, no? Boh, non lo so quanto gli può. Dipende. Sai, Barcellona è una squadra complicata. Adesso con il cambio di allenatore anche per Bernardeschi, per me è un po' un rischio. Rischia di venire qua e giocare ancora meno di quanto non giochi là. Io non lo so, se fossi in lui ci penserei. Oggi sul presente, insomma, tutto l'affetto per Bernardeschi, Rakitic è un giocatore di quelli che ti possono ancora. Poi passano sei mesi, cambiare completamente la dimensione di un centrocampo. Assolutamente. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Ben trovato, dica. Vi ascolto tutti i giorni. Bravissimo. Un saluto particolare e speciale al giornalista Luigi Pardo, che tra l'altro mi è anche simpatico. Grazie. Anche volevo appunto fare un'osservazione a Luigi Pardo. Secondo me non è normale che si parli sempre della Juventus. Anche perché, voglio dire, ci sono tante squadre, tipo il Milan, facciamo un esempio, il Milan. Sì. Il Milan, nonostante tutto, fa 60.000 spettatori anche in Coppa Italia. Quindi, vedo che queste cose non vengono accentuate. Ma guarda, io non sono d'accordo sul postulato, cioè secondo me non è che si parla solo di Juve, si parla moltissimo di Juve, si parla moltissimo anche di Inter, ma adesso io non ho l'osservatorio, qual è quello dell'osservatorio di Pavia, quell'osservatorio che valuta lo spazio dei politici in TV. Tornando a casa faccio un giro. Dovremmo chiedere, no, non era Pavia, non mi ricordo. Cioè, non mi sembra, secondo me si parla molto di sfida a scudetto, si parla poco, questo sono d'accordo, di Lazio, perché un po' perché è entrata adesso nella lotta a scudetto con questa striscia di 11 vittorie. Non è che in Spagna poi si parla tutto il tempo del Salamanca, del Murcia. No, poi se mi dice che rispetto al passato si parla poco di Milan, è vero. C'è anche un aspetto legato alla stagione del Milan, che è una stagione di metà classifica. Si parla, faccio un altro esempio che credo sia assolutamente dirimente, ne parlavo 3 minuti fa con De Luca, si parla meno di Napoli rispetto a 3 anni fa, ma è abbastanza ovvio, perché 3 anni fa il Napoli era una squadra in lotta per lo scudetto, oggi è una squadra grande, importante, però un po' in difficoltà. Però non volevo interromperla e l'ho fatto, quindi le ridò la parola, mi scuso. Scusi se la interrompo io, però si è parlato tanto di Juve anche quando era in Serie B, capisce? La Juve è sempre sul piedistallo ad ogni modo per quanto riguarda i media, questo non ho mai capito perché. Oltretutto le faccio un esempio, alla Juve è stato così semplice fargli fare lo stadio, è stato una delle prime in Italia a avere lo stadio di proprietà, mentre per quanto riguarda Berlusconi, non so se ve lo ricordate, ancora prima che lo facesse la Juve, voleva farlo e non so. Però questo, scusi, questo è un altro discorso. Allora, se parliamo della continassa, così come se parliamo, per esempio, in Spagna, adesso c'è Ricci, di quello che è successo a Madrid con Real Madrid, questo è un discorso che riguarda i comuni, la politica, è un'altra cosa. Per quello che io le posso dire, dal punto di vista mediatico, si parla tanto di Juve, ma aggiungo anche di Inter, anche di Milan, anche di Napoli, perché sono squadre che hanno milioni di tifosi. Io mi scuso da questo punto di vista con i tifosi delle squadre un po' più piccole. È chiaro che in un programma nazionale tendenzialmente se ne parla un po' meno. Ma credo che anche in Spagna ci siano seri problemi di par condicio, cioè, su Real Madrid e Barcellona. È il motivo per il quale si parla di più di Partito Democratico e Lega e 5 Stelle rispetto a Potere al Popolo e non so. Vabbè, ragazzi, che non voglio... È tutto molto bello, ma vi però siamo aperti. Siamo aperti, cioè, e anzi, posso dire una cosa, approfitto perché la vivo anche con Tiki Taka. L'invito alle squadre, diciamo, di fascia media piccola del campionato è sempre aperto. Cioè, se vogliono far intervenire un calciatore, un giocatore, vogliono che se ne parli, noi siamo stradisponibili sempre e anche strafelici. Grazie Claudio Schiattone, cioè, Gianmarco Ferronato, ringrazio Filippo Maria Ricci, ci sentiamo con e ci vediamo magari con te domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.